Epilogo. Le pietre ricordano. Montagnana, ogni estate, le torri di Montagnana si levano ancora contro il cielo. Il mastio di Ezzelino, severo e possente, veglia ancora sulle campagne che si stendono verso Verona e verso Padova. La Rocca degli Alberi apre ancora i suoi merli al vento della pianura, testimone muta di assedi e di liberazioni, di signorie tramontate e di comunità sopravvissute a tutto. Le mura corrono ancora complete intorno alla città, quelle stesse mura che un ragazzo di 16 anni vide bruciare in una notte di marzo del 1242 e vide rinascere più forti, più alte, più solide delle precedenti, come se il fuoco non avesse distrutto ma purificato, non abbattuto ma temprato. Ogni anno, quando l'estate accarezza il verde vallo medievale, i tamburi tornano a battere prima dell'alba. I gonfaloni dei 10 comuni si alzano uno a uno nel cielo mattutino. Gli armigeri marciano con il passo cadenzato di chi porta sulle spalle secoli di storia. I fantini montano in sella con quella calma sicura di chi aspetta il momento giusto. E quando la campana suona e i cavalli scattano lungo il vallo, per un istante che vale un'eternità, Milo è ancora lì. Bertone con la sua coppa vuota, Fante il calzolaio con le dita di cera, Agnese la vedova con il pane caldo, Giacomo con la sua risata impossibile e il sacco di farina, Corrado con il martello e lo scudo di ferro nascosto nella bottega. Sono tutti lì, nelle pietre, nel vento, nel ritmo dei tamburi, nel grido della folla quando il drappo rosso viene alzato verso il cielo. Perché le città non sono fatte di mura. Le mura cadono, bruciano, vengono ricostruite e abbattute ancora. Le città sono fatte di memoria. Della memoria ostinata e testarda di chi ha vissuto, resistito, atteso il momento giusto, e poi si è alzato ancora. Montagnana lo sa da quasi 1000 anni. E continua a ricordarlo ogni estate, sulle mura che il fuoco non riesce a tenere abbassate, sotto il cielo che nessun tiranno è mai riuscito a conquistare del tutto. Finché ci sarà una storia da raccontare, Montagnana vivrà.